D'Agostino. D'Agostino. D'Agostino. Nessuno è più bravo di lui. Numero 15. Cosa stiamo ascoltando, fratello? Techno Wolf. Orchestra Maldestra. Versione? Gigi Wolf. La trovo in vendita o me la devo scaricare? Mo' si attaccamo tutti al cane. Abbada. Bye. marzo, domenica pomeriggio 2006. Anfibe, fiera di Rimini nello stand M2O Newmark. Dalle 15 alle 17. Arrivano da lontano, provenzino e d'agostano. It's not a glass of wine, but a special. It's not a glass of wine, but a special out of mind. È giusto così, fa rima, suona bene. Legna duck.com. Duck.com. Duck.com. Duck.com. Duck.com. Chi è questa canzone qua? Uomo suono. Titolo? Más fuerte. Posizione numero? Numero 9. Wow.

In my heart,